Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa della prossima votazione, dell'esito della prossima votazione sul Presidente della Repubblica. Come va la borsa? Devo dire che se ne frega altamente, nel senso che fa più 0,46% Milano, meglio anche di Parigi che fa più 0,12%, di Francoforte che fa meno 0,30% e di Londra che fa più 0,10%. Per quello che riguarda i singoli titoli, segnalo una debolezza su Enel, Green Power meno 2,20, Campari meno 2, di Assori meno 2, A2A meno 1,70, però bene Lottomatica più 3,70, Luxottica più 2,30, Enel più 1,90, Popolare Emilia Romagna più 2, Mediaset più 1,80 come Banco Popolare e anche Terna, Ubibanca più 1,60 come Ferragamo e Unicredit. Quindi non c'è una reazione netta, diretta sui mercati, anche perché chi, qualunque osservatore di cose italiane, si aspettava probabilmente, anche se alcuni davano per possibile un'elezione alla prima votazione, chiamiamola così, una dialettica, ecco, una dialettica con tra i vari partiti per trovare un accordo. Mi sembra che le cose si stiano complicando. Detto ciò, di cosa ci occuperemo oggi noi? Beh, del cambio ai vertici dell'Alitalia, va via Ragnetti e arriva un altro manager. In realtà l'Italia non è solo la nomina di Gabriele Del Torchio come nuovo amministratore delegato, è attualmente Del Torchio è amministratore delegato di Ducati, però lì c'è il tema del prestito da 150 milioni di euro varato lo scorso 22 febbraio e al momento sottoscritto solo per 95 milioni, ma potrebbe essere sottoscritto da altri soci. E poi per quello che riguarda invece la giornata economico-finanziaria, partiremo anche con i dati diffusi oggi dalla Confcommercio sui consumi. A me dispiace, però noi dobbiamo darli questi dati. Si scopre che le famiglie italiane hanno tagliato, questo l'ha scoperto in realtà il primo rapporto sulla maternità, le famiglie italiane hanno tagliato anche le spese per i bebè, 90 milioni di euro in meno nel 2012. Non è detto che tutte fossero spese necessarie, non voglio dire che risparmiare sulle spese per i bambini sia solo un segno di povertà. I tagli sul biberon, come vengono chiamati, possono essere anche delle volte dei tagli su eccessi di spesa. Però, in realtà il dato è significativo. Quello che ci dice la Confcommercio invece è che 4 famiglie su 10 temono di non riuscire a pagare più il mutuo, che gli italiani sono ancora in maggioranza favorevoli all'euro, 8 su 10 non vogliono uscire dall'euro, solo il 24% pensa che se l'Italia uscisse dalla moneta unica si starebbe meglio. Il sondaggio è Censis Confcommercio. Bocciata anche l'ipotesi di aumentare l'occupazione ricorrendo all'aumento della spesa pubblica, 25% sì, 75% no. Però lo studio fa notare come le banche abbiano stretto ulteriormente il rubinetto del credito, che la fiducia delle famiglie sia ai minimi storici, 11 milioni di familiari, di nuclei familiari non sono in grado di mantenere il loro tenore di vita. E lo stesso presidente di Confcommercio, Sangalli, ha ricordato come nel 2013 chiuderanno 250.000 imprese, i fallimenti al giorno sono 40. Io, a me tocca ricordarlo, perché così vediamo se riusciamo a dare una fotografia reale del paese. Nello spazio che occupa questo programma, un'ora e mezza, se si tolgono le ore notturne, chiudono più o meno 3 imprese nello spazio che ci mettiamo da adesso fino alle 18.30. Questa è la situazione. Voi mi dite, ma ne aprono? Sì, ne aprono, ma meno di prima, e le chiusure sono, i fallimenti sono raddoppiati rispetto a 10 anni fa. La borsa l'abbiamo detta. Poi nella seconda ora del programma invece ci permetteremo di far notare una piccola cosa. Ci sono 2 economisti considerati dei guru a livello mondiale sulle politiche di austerità, cioè quelli che i teorici dell'austerità a tutti i costi, tagli e tasse, tagli e tasse. Quella che è la linea filo tedesca che ha utilizzato l'Europa sempre, con una piccola, diciamo così, capacità di contenimento da parte di Mario Draghi, ma in realtà la linea è questa: bisogna ridurre il debito e il deficit. Tutto questo si basava su uno studio famoso di Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, che avevano dimostrato come i paesi con un alto debito sopra il 90% del PIL vedessero compromessa la crescita. Quindi se il debito va oltre il 90% del PIL, tu cresci di meno perché diventa una zavorra, e questo è il motivo per cui l'Europa ha un obiettivo, il fiscal compact tedesco, cioè portare il debito al 60% del PIL entro 2020, che è una follia per noi, vorrebbe dire tagliare di 50 miliardi, 60 miliardi il debito all'anno per ogni anno da qua al 2020, e con la recessione in corso. Ma dico, questo è l'approccio teorico che ha sempre spinto a dire bisogna ridurre il debito e il deficit anche rapidamente, perché se no i paesi non tornano a crescere, sulla base di questi studi. Peccato che gli studi fossero taroccati. Se ne sono accorti i ricercatori e gli economisti dell'Università del Massachusetts, che sono andati a vedere come questi due economisti molto vicini al mondo bancario americano e alle istituzioni governative americane avessero condotto questi studi. Si sono accorti che non avevano preso in considerazione alcuni casi che andavano contro la loro teoria. Per esempio il PIL dell'Australia e il PIL della Nuova Zelanda, che sono cresciuti e anche tanto nonostante un debito alto. E si sono accorti che se avessero preso in considerazione tutti i casi, cosa che uno studioso dovrebbe sempre fare, invece che uscirsene con un dato che vede i paesi indebitati oltre il 90% calare il PIL dello 0,1%, avrebbero ottenuto un dato che i paesi indebitati mediamente erano cresciuti del PIL del 2,2%. Ora ne parleremo, perché trasfigurare la realtà con un approccio ideologico è molto grave, nel senso che poi diventano delle regole, bisogna tagliare il deficit, il debito per crescere. Beh, insomma, uno guarda i dati e vede che non è così. Non che il debito e il deficit facciano bene, attenzione, e a noi fanno male, ma che non c'è alcuna correlazione stretta tra il tuo livello di debito e come cresci nel PIL. Sono paesi con un alto debito che crescono e paesi con un alto debito che non crescono, e viceversa. Per cui attenzione a prenderlo come una legge o un mantra. Dopodiché, aggiungo e concludo, tagliare deficit e debito quando tu sei in recessione è molto più difficile che tagliarlo quando cresci, perché il rapporto è un rapporto, quindi è debito o deficit sul PIL, e se il tuo PIL è prossimo allo zero o addirittura negativo, tu puoi tagliare il numeratore quanto vuoi, ma se il tuo denominatore scompare, il tuo rapporto sarà sempre altissimo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Segnalo un caso che probabilmente non ha nessun valore scientifico. Ci stanno scrivendo da settimane ascoltatori segnalando furti di microcriminalità che sono ripartiti, autoradio rubate. Io non sentivo più di un'autoradio rubata da 15 anni, 20 anni, macchine spaccate per rubare i passeggini. Cioè, allora, noi le prendiamo con le pinze queste cose, però sarebbe interessante anche vedere, appena il Ministero ce lo metterà a disposizione, i dati sul tasso di microcriminalità, per capire se c'è una corrispondenza tra le sensazioni che riceviamo e i dati invece ufficiali del Ministero. C'è un ascoltatore che dice: mi scusi, ma anche se avessimo meno austerità, le imprese chiuderebbero lo stesso a causa di questa crisi mondiale. No, guardi che in realtà non confonda la crisi dell'euro con la crisi mondiale. Nel resto del mondo la borsa americana è tornata sopra i livelli del 2007, la Cina cresce, non fortissima ma cresce, l'India pure, il Brasile, lo raccontavamo ieri, per la prima volta ha più immigrati dall'Europa che dal resto del Sud America, l'Indonesia va bene, la Turchia cresce, l'India cresce, siamo solo noi fermi. Per cui, cioè, le imprese italiane hanno i loro problemi poi, perché quelle che non esportano sono bloccate dal mercato interno, ma le imprese chiudono in questo momento perché non riescono, anche quelle più virtuose, a riequilibrare i dati che arrivano dall'export con il crollo dei consumi interni. Meno austerità e quindi politiche di investimento, far ripartire edilizia, anche i micro lavori, sbloccare i comuni virtuosi che hanno 12 miliardi in cassa complessivamente, gli eurobond, far ripartire gli investimenti, non gli sprechi che raccontiamo ogni giorno, ma quello permetterebbe di liberare un po' di risorse per i consumi. E quindi se tu hai, invece che un disoccupato, hai un occupato in casa, forse consumi un po' di più. E quindi forse anche le imprese italiane tornerebbero a vendere sul mercato interno, che è praticamente scomparso. Andiamo avanti con le dichiarazioni, poi ricorderò insomma le dichiarazioni. Oggi il Bundestag ha dato via libera, la Camera tedesca, il Parlamento tedesco ha dato via libera agli aiuti su Cipro, però nel giorno in cui le previsioni sull'economia tedesca sono state riviste al ribasso, non più l'1% nel 2013 ma lo 0,8%, che è una crescita modesta per la Germania sicuramente, e nel giorno in cui il mitico Wolfgang Schäuble, ma poi ce ne occuperemo nella seconda ora, il ministro delle finanze tedesco, uno dei falchi più falchi, ha detto attenzione, in Italia e in Spagna le persone vivono un momento difficile, ma non c'è strada e non c'è alternativa alle riforme. E poi ha detto ma un'insolvenza di Cipro metterebbe a rischio anche paesi come Spagna e Italia. Dura la replica questa mattina del ministro Passera, io ve la faccio ascoltare, quando era ospite nel programma 9 in punto, questa è la replica alle dichiarazioni del suo collega tedesco Wolfgang Schäuble. Ma no, ma diamo il senso della misura alle cose, già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato nel modo giusto, nel momento giusto. Adesso non rifacciamolo con un micro problema come quello di Cipro. E quindi già ci siamo fatti mettere in un angolo per la Grecia che valeva il 2% del PIL, figurarsi per Cipro. Posso dire una cosa, poi ne parleremo nella seconda ora. Seguendo il ragionamento di Schäuble, ok, se Cipro salta anche Italia e Spagna sono a rischio, se Italia e Spagna sono a rischio anche la Francia e la Germania sono a rischio, e andiamo avanti così, a questo punto salta l'euro allora anche la Cina è a rischio. Oh Schäuble, non è più finita così, ma che senso ha dire che un paese che conta pochissimo nello spazio come Cipro, no? Mette a rischio le banche, il sistema bancario spagnolo, italiano. Guardi, la Spagna ha tanti problemi ma ha due colossi bancari grossi. Poi Schäuble può anche raccontarci come avete fatto voi a salvare Commerzbank e Deutsche Bank quando avevano problemi, no? Mi chiedo, visto che... E perché avete prestato così tanti soldi ai greci e ai ciprioti se sono paesi così a rischio? Cioè, sulla base di questo ragionamento allora tutto salta. Però c'è il mitico Anders Borg, noi continuiamo a preferire Björn Borg, il tennista, ma Anders Borg è il giovane ministro delle finanze svedese, dimostrazione che essere giovani non basta con questa retorica sul giovanilismo. Io dico sempre, se uno è mono da giovane, è mono da vecchio, e se è mono da vecchio, è mono da giovane, non è che... Dai. L'età peggiora anche le cose. Comunque, insomma, il mitico ministro delle finanze svedese parla dell'Italia e dice bisogna essere molto ottimisti per non essere preoccupati per l'Italia, la situazione politica rende difficile aspettarsi per i prossimi 5-10 anni che continuino le ambiziose riforme avviate dal governo Monti. Borg ha detto che Italia, Spagna e Grecia con i rischi che corrono rischiano di tornare in cima all'agenda dell'Unione Europea. Boh. Ma che ne sa lui, cioè, non sappiamo ancora chi è il prossimo Presidente della Repubblica, chi è il prossimo Presidente del Consiglio, questo già sa che le riforme ambiziose avviate dal governo Monti non potranno essere fatte. Allora, le riforme che ha fatto il governo Monti sono già legge, quella delle pensioni con gli esodati come corollario e le altre riforme del mercato del lavoro che forse andrebbe cambiata con il pastrocchio che ne è venuto fuori. E le altre riforme volete dare spazio o tempo al nuovo governo, no? Chiedo. Già sai che cosa succederà all'Italia. Mamma mia. Noi però continuiamo a criticare i cavalieri teutonici che vedono solo austerità e tagli, ma anche a autocriticarci per vedere che cosa si può migliorare questo paese. Devo dare una risposta a un ascoltatore che dice ma lei continua a insistere sull'edilizia, ma cosa si può costruire? No, non sto parlando di case e abitazioni, che chiaramente il mercato è in calo, sto parlando del fatto che gli investimenti in opere infrastrutturali hanno un grosso effetto immediato sulla crescita, perché io posso fare una riforma che ha un effetto fra 5 anni, se invece appalto una bretella di una provinciale o una strada, un'autostrada, un collegamento, che sono magari lavori fermi a metà perché mancano i soldi, beh, lì creo, genero subito occupazione, perché soprattutto sui microappalti distribuisco nel territorio a ditte, imprese anche piccole, e quindi l'effetto immediato, l'effetto virtuoso ce l'ho subito, tutto qua. Non voglio mica far costruire nuove case in Italia con il mercato che c'è. C'è chi mi chiede cosa vuol dire Mona. Vabbè. Vuol dire una persona, diciamo, che non così lungimirante, diciamo, un po' miope nell'analisi. Allora, 349-238-6666 per gli sms, Focus Economia su Facebook per chi vuole scrivere su Facebook. Qualche buona notizia c'è però sulla nostra pubblica amministrazione, enti pubblici, e quindi su come spendiamo il denaro pubblico. Vai. Abbassare non sarebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, sarebbe più ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag blu, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag blu. Allora, qualcuno dice che io rimpiango i tempi di Craxi quando si creò l'alto debito. No, guardi, non rimpiango assolutamente, sto solo dicendo che primum vivere, in primo luogo dobbiamo sopravvivere, qua ci stiamo avvitando, solo l'area euro si sta avvitando, ma un po' di autocritica si può fare nella vita, non stanno funzionando queste politiche, ci stiamo beccando, dovevamo essere fuori dalla crisi nel 2010-2011, ci stiamo ripiombando, siamo l'unica area geografica del mondo che ha beccato la doppia crisi, tutti hanno preso quella del 2008-2009, noi come area euro ci siamo beccati anche quella del 2011-2012, vedo un po', sono tutti stupidi gli altri, chiedo. Allora, qualche buona notizia, perché? Perché il mitico Franco Fiorito, alias Batman, restituirà alla Regione Lazio 1.090.000 euro. Lo ha annunciato l'avvocato Carlo Taormina, difensore dell'ex capogruppo del PDL, dicendo che hanno raggiunto un accordo con la Corte dei Conti. 1.090.000 euro restituisce, evidentemente se li era intascati a questo punto. Invece in Piemonte tutti i gruppi politici del Consiglio regionale sarebbero indagati dalla Procura di Torino sull'utilizzo dei fondi regionali. Prima erano 45 consiglieri su 60, adesso mi sembra di capire che sono 60 su 60, o meglio tutti i gruppi politici a cui appartengono questi consiglieri sono indagati, e questo è un tentativo di accordo bipartisan o bipartisan in una giunta regionale. Io devo dire che, insomma, non amo citare il Papa come fanno alcuni come esempio, modello, però insomma c'è un nuovo segnale di sobrietà che arriva da Papa Francesco, perché rompendo con la tradizione il nuovo pontefice ha deciso infatti di non attribuire ai circa 4.000 dipendenti vaticani la gratifica abitualmente concessa per l'elezione del nuovo Papa. Per il personale vaticano si tratta di una doppia perdita, perché già non avevano usufruito quando al momento della sede vacante seguita alla rinuncia di Benedetto XVI della gratifica che viene normalmente assegnata in caso di morte del pontefice. Adesso, cioè, non hanno preso la gratifica perché non è morto Benedetto XVI e non la prendono perché non la vuole dare Francesco, e non sono importi di poco conto, perché i dipendenti del Vaticano, quando muore un papa e poi se ne elegge un altro, avevano ricevuto per esempio nel 2005 1.500 euro ciascuno. Prima 1.000 euro per la morte di Giovanni Paolo II e una seconda di 500 euro per l'elezione di Benedetto XVI. E poi però Francesco ha fatto sapere di essere a favore di una chiesa povera e per i poveri. C'è poi il caso di quello che sta capitando a Bologna. Perché? Perché i licei bolognesi hanno, ma non solo loro, hanno il cosiddetto contributo volontario, che serve o dovrebbe servire solo per arricchire l'offerta didattica degli istituti, ma non dovrebbe essere obbligatorio. In realtà, in un rapporto oggi diffuso, in 39 istituti scolastici bolognesi il contributo richiesto ai genitori, oltre alla carta igienica, i colori, il costo delle gite, le raccolte straordinarie con le feste, l'assicurazione obbligatoria, è in media di 20 euro alle elementari, 21 euro alle medie, ma alle superiori si arriva dai 90 ai 150 euro. E una scuola può così contare mediamente su 30.000 euro annui, cifra che sale fino a 185.000 euro per le superiori. Voi direte perché? Perché con il finanziamento che Stato e Provincia danno per il funzionamento amministrativo didattico, una scuola riesce a coprire solo le spese di segreteria. Pensate che per un liceo con 1.000 studenti il fondo ministeriale è di 9.000 euro l'anno. Poi noi tutti da mesi raccontiamo le spese di consulenza a Bologna. Non era Bologna che aveva speso, se mi ritrovate il dato, 800.000 euro di consulenze negli ultimi sei mesi del 2012, il comune di Bologna. Allora hai 800.000 euro di consulenze, tra cui per la comunicazione, ma non riesci a trovare i soldi per la carta igienica e i colori, le gite scolastiche. No, ma dico, ma stiamo scherzando veramente? E invece da Lecce arriva un'altra notizia. Strano, incredibile, ma ci sono ancora casi di baronia, o ci sarebbero ancora casi di baronia nell'università italiana. Nel caso specifico, all'università di Salento, del Salento, sono sotto la lente di ingrandimento gli incarichi esterni per verificare se il rettore Domenico Laforgia abbia favorito persone della sua famiglia a lui vicine. Il PM della Procura di Lecce infatti ha ordinato ai militari di individuare, alla Guardia di Finanza, di individuare tutti gli atti relativi all'affidamento di incarichi e consulenze degli ultimi sei anni. In effetti ci sono dei casi un po' sospetti di alcuni incarichi da parte del rettore a studi tecnici che farebbero capo proprio ai congiunti di Laforgia. Per esempio, c'è un incarico dato al Laforgia Bruni & Partners, che penso essere non un omonimo ma uno vicino a lui, di cui il magnifico rettore sarebbe stato socio fondatore e avrebbe detenuto fino al giugno 2012 il 50% delle quote poi cedute al figlio. Qui bisogna capire se siano stati commessi abusi d'ufficio oppure se siano stati favoriti professionisti vicini ai vertici dell'Ateneo a scapito di altri. Adesso andiamo col meteo e la pubblicità, poi partiamo con i consumi degli italiani, o meglio i non consumi degli italiani, e arriviamo alla borsa e poi anche alla vicenda all'Italia e poi insomma allo sbugiardamento dei due mitici economisti usati come ideologi per tutte le politiche dell'austerità. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi scrive un ascoltatore, immagino un po' sfottendomi, dottor Barisoni, perché non scrive un libro dal titolo Elogio delle cicale e dei mandolinari, sono altro di mandolino? No, guardi, preferirei scrivere un altro libro, come un continente che stava uscendo dalla crisi, e quindi, diciamo, Elogio di Tafazzi e dei Tafazzi del Nord, perché noi nel 2010 come area euro eravamo in linea con il resto del mondo, quindi stavamo recuperando quote di produzione, di fatturato, di ordinativi, e poi ci si è messa la gestione della Grecia a far diventare l'Europa il vaso di coccio a livello mondiale, la scommessa, l'euro terrà, l'euro non terrà, ecco, diciamo, fare un libro così, come l'Europa riesce a farsi male da sola. E poi guardi, se c'è un programma che continua a raccontare da un anno gli sprechi della pubblica amministrazione a qualunque livello, comuni, province, regioni, Stato, è questo qui. Abbiamo raccontato di tutto perché critichiamo i nostri sprechi, ma non basta questo per risollevare la stagnazione e recessione economica europea. La Germania fa più 0,8 quest'anno, per ora. Va bene, va bene. Chi fotografa oggi una situazione sempre più difficile è lo studio del Censis e della Confcommercio, in cui, al di là di dati che ormai stanno diventando quasi, ahimè, ripetitivi, 4 famiglie su 10 temono di non riuscire a pagare il mutuo, la fiducia delle famiglie è ai minimi, 11 milioni di famiglie arrancano, e viene confermato anche una stretta, o meglio aumenta il numero di imprese che non riescono a ottenere prestiti dalle banche. Cala ancora praticamente, le richieste di finanziamento sono crollate dal 34 al 29% nei primi tre mesi del 2012. 40 fallimenti al giorno, questo nel primo trimestre 2013. Dottor Mariano Bella, responsabile del Centro Studi di Confcommercio, buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque, intanto qualcuno dice che le mie ricette porterebbero alla disgregazione dell'euro, vabbè. Io resto dell'idea che si debbano tenere sotto controllo i conti, ma l'Europa debba iniziare a avere qualche politica per la crescita, a spendere un po' di più, soprattutto i paesi che i soldi li hanno. Comunque, Bella, intanto mi dica anche lei che ne pensa a sto punto, così non facciamo un dialogo solo tra me e gli ascoltatori. Ma no, ma ora al di là di cambiare radicalmente idea rispetto ad alcune affermazioni fatte da economisti comunque illustri, certamente quello che diceva lei è il punto chiave. Togliamo questi benedetti investimenti produttivi dal patto di stabilità. Ma porca miseria, ma è così difficile. Io ormai sto impazzendo, perché impresa, mi scuso di interrompere, qualunque imprenditore sa, o manager, che un conto è spendere un milione di euro per abbellire lo studio, comprare una nuova sede, prendere un'insegna, comprarsi il parco macchine nuovo o via così. Altra cosa è spendere un milione di euro per macchinari, per aprire nuove sedi commerciali, per rimettere in piedi una rete commerciale. Lo capisce anche un bambino. Solo gli europei dell'area euro considerano un milione speso per rifare la tappezzeria dello studio, magari tappezzando anche la segretaria, uguale a un milione speso per comprarsi un macchinario. Io non so più come spiegarlo. Però bisogna precisare una cosa. Non parliamo che la segretaria sarebbe contenta. No, noi stiamo parlando di togliere dal patto di stabilità gli investimenti produttivi pubblici. Allora è chiaro che alcuni paesi, chiamiamoli virtuosi, chiamiamoli del nord, diciamo Germania, Olanda, Belgio, quelli che hanno conti più in ordine, sono preoccupati del fatto che paesi come l'Italia, diciamoci la verità, negli ultimi 40 anni gli investimenti pubblici, soprattutto al sud, ma non solo al sud, ne hanno fatti tanti, ma non erano veri e propri investimenti. Era sostegno, era trasferimento di risorse che non si sa dove sono andate. Va bene, ma infatti io credo che sia anche corretto che siano andate a finanziare attività illegali. Ma guardi, ieri abbiamo commentato come la Regione Sicilia, nella gestione prima di Crocetta di Lombardo, ha avuto il coraggio di spendere ancora centinaia di milioni di euro in corsi di formazione per parrucchiere, estetiste, massaggiatrici olandesi. Mi ridate per favore la notizia? A quello è chiaro che è sbagliato. Formavano pochissimi artigiani, pochissimi tornitori, però in compenso riempiamo la Sicilia di parrucchiere, col massimo rispetto, però un disoccupato con la permanente o con le mesh giuste, secondo me resta sempre un disoccupato. Perfetto, quindi che cosa bisognerebbe fare per convincere l'Europa a togliere questi investimenti pubblici dal posto di stabilità? Immaginare un meccanismo con una commissione agile, terza, indipendente, fatta da persone autorevoli, che faccia uno scrutinio di merito sugli investimenti che ogni Stato vuole togliere, propone di togliere dal computo del deficit per la procedura di deficit eccessivo, nel senso che se la Germania guarda la lista di investimenti che i pubblici che io voglio fare e dice sì, effettivamente sono investimenti produttivi, non sono quelli che diceva lei prima, buttare soldi, allora forse così avrebbe maggiore tranquillità nell'aderire a questa proposta di rilassamento, che poi è una cosa anche abbastanza piccola, del patto di stabilità. Bisogna mettersi d'accordo, ma credo che alla fine, speriamo prima piuttosto che poi, alla fine si andrà certamente in questa direzione. Certo, un paese come l'Italia ha bisogno di sbloccare immediatamente quel patto di stabilità sull'esterno, perché molti comuni hanno i soldi. 12 miliardi è quello che i comuni italiani hanno in cassa che non possono spendere, i virtuosi. Guarda, io voglio essere anche più estremo su questo. Io posso capire che un tedesco, e ci mancherebbe, con quello che raccontiamo, non si fida dell'Italia o delle regioni italiane o delle comuni italiane, perché quando raccontiamo che l'ultimo gesto del governo lombardo in Sicilia è stato spendere 280 milioni di euro per finanziare corsi con 1/2 allievi, dalle massaggiatrici shiatsu ai barman acrobatici, ai corsi per esperti in regole del vivere civile e estetiste, parrucchieri, appena 100 sarti, pochissimi elettricisti, pochissimi tornitori. C'era poi quel corso dove cavolo è operatore agenzia turistica, un solo allievo, 4 iscritti ai corsi per potatore di spazi verdi, e poi c'era assaggiatore di formaggio, lavorazione del tombolo, e poi ancora il corso sull'arte di apprendere l'inclusione. Ecco, è ovvio che il tedesco non si fida. Vincolateli, commissariateli, non li voglio neanche toccare io, non voglio toccare un euro. Dateci gli eurobond, date la possibilità all'Italia di rompere il patto di stabilità, andate a controllare ogni investimento, bloccate quelli che non passano il test, caricateceli sul deficit se sono soldi sprecati, quello che volete, ma torniamo a investire in questo cavolo di area euro. Bella. Esatto, sì, sono perfettamente d'accordo, questa è la direzione, non mi pare che ce ne siano altri. Mi dica invece una cosa, no, non devo urlare, mi sta sfondando i timpani, mi dice l'ascoltatore, mi scusi, chiedo venia. Ha ragione, ritorno con uno spirito britannico, meglio tedesco, e mi dica per favore come stanno andando questi primi 3 mesi dell'anno, perché i dati sui fallimenti che voi registrate nelle imprese dell'artigianato e del commercio, insomma, sembrerebbero dire che la coda è bella pesante sul 2012. Secondo noi, a guardare i dati congiunturali del 2013, la situazione non è affatto in via di soluzione, anzi ci sono dei peggioramenti, perché se guardiamo i dati sui consumi, dalle immatricolazioni di auto a quello che ci dice la Nielsen sulle prime 9 settimane, sulle prime 9 settimane del 2013 per quanto riguarda il mass market, quindi alimentari e grocery, scatolette, i detersivi eccetera, ecco, se guardiamo questi dati siamo peggio della fine del 2012, e questo certamente non ci può meccanicamente fare vedere la benedetta luce in fondo al tunnel. Noi crediamo che la situazione sia estremamente difficile e bisognerà soffrire ancora per diverso tempo. D'altra parte, la fiducia ai minimi sia di imprese che di famiglie non consente di fare valutazioni differenti. Ecco, quali sono, per concludere, i settori più colpiti nel mondo del commercio, chiaramente, dai dati ultimi che avete dei primi 3 mesi del 2013? Alimentari, abbigliamento, arredamento, cioè tutto quello che che va molto bene sull'estero, no? Sì. Il Made in Italy, purtroppo sull'interno stenta. Chi è che invece, diciamo, se la passa meno peggio, bella? Difficile trovare un dato positivo in termini di consumi, diciamo che a causa di prezzi fortemente decrescenti di tecnologia tutto sommato innovativa, ancora nell'area internet e telecomunicazioni, quindi elettronica da consumo, come la chiamate voi? Esatto, sì, ma soprattutto l'area della telefonia, non più i televisori, gli schermi piatti, diciamo gli audio e il video per la casa, soprattutto la telefonia e internet, lì ancora tengono, ma comunque i margini delle imprese anche sulla distribuzione e produzione di questi oggetti sono molto sono molto stretti e sono anche decrescenti. Mariano Bella, grazie quindi al direttore del centro studio della Confcommercio. Il traffico, e poi passiamo alla borsa, perché poi anche l'Italia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, facciamo la borsa, più 0,60%, Parigi invariata, Francoforte meno 0,40%, Londra invariata, anche oggi come ieri, Milano la più forte in Europa, l'America perde lo 0,40%, i motivi si chiamano l'automatica più 3,90%, ma anche e soprattutto le banche, Banco Popolare più 2,80%, Emilia Romagna più 90, Ubibanca più 80, Unicredit più 1,80%, la borsa. Vari motivi di questo rialzo, però oggi vorrei fare un commento con, visto che è ancora la 24 in diretta dal Salone del Risparmio con alcuni programmi, con il responsabile dei mercati sviluppati, non che gli altri siano sottosviluppati, ma mercati più maturi, America, Stati Uniti, Giappone, Italia, per Aletti GSTL, dottor Pierluca Beltramelli, buonasera. Buonasera. Ma veramente li chiamate mercati sviluppati? Sì, Abbiamo una tra mercati emergenti e mercati sviluppati. Quindi... Allora chiamateli mercati emersi, perché sennò l'opposto di sviluppato è sottosviluppato, non sviluppato, si arrabbiano gli altri. Speriamo che siano i futuri emergenti, visto che hanno alcune problematicità in più, quindi speriamo che in futuro possa migliorare. Potete anche chiamarli mercati immergenti, dopo quello che abbiamo detto fino adesso. Comunque, mi dica una cosa, ma com'è che la borsa se ne frega bellamente di tutto il caos politico italiano? Cioè, ma diciamo non che... dico che festeggi, insomma, una borsa così tranquilla non la vedevamo da tempo. Sì, un po' sì, di, un po' di movimento relativi, sullo... no, in termini relativi è vero che negli ultimi due giorni la borsa italiana ha fatto meglio degli indici. No, ma anche prima, dico, sì, ha perso, per carità, però insomma l'effetto politica non si vede. Diciamo che da inizio anno comunque rimane il peggior mercato europeo, quindi comunque aveva accumulato delle perdite in precedenza, soprattutto il settore bancario era già stato penalizzato dopo i risultati di fine anno, con tutta la pulizia e gli accantonamenti che sono stati fatti per la qualità del credito, per aumentare il coverage a livello bancario, quindi in parte il settore finanziario italiano è quello che più aveva già subito l'andamento negativo dell'economia e che tratta comunque a delle valutazioni molto a sconto rispetto ai peers europei. Quindi in parte questo è giustificato anche da questo andamento, anche diciamo dall'andamento obbligazionario, perché comunque il rendimento sul decennale BTP sta al 4,25, quindi comunque molto più forte di anche prima delle elezioni, quindi c'è una componente anche diciamo di sistema che sta reggendo, anche le aste che sono state fatte sono state tutte positive. Beh sì, le aste positive, come no, il BTP Italia è l'ultima, ma soprattutto devo dire che funziona lo scudo OMT di Draghi. Sicuramente quello è un elemento che caratterizza questo periodo in maniera molto diversa rispetto all'anno scorso, dove una situazione di questo tipo sicuramente avrebbe creato molti, molti più problematicità. Oggi sicuramente l'azione della Banca Centrale Europea fa la differenza anche in futuro. Meno male che c'è Mario Draghi che ha messo questo scudo sulle banche, quindi anche sulle borse europee, perché se aspettavamo la politica europea stavamo freschi. Detto ciò, il tema di borsa di oggi, perché abbiamo visto andare bene l'automatica, Campari negativa meno 2% come la 2A, ma mediamente bene, tranne la Popolare di Milano che perde l'1,30, e mediamente bene anche le banche. Sì, assolutamente, le banche hanno fatto bene in relativo rispetto all'indice, soprattutto direi anche alcune banche tra le più grosse, quindi anche Unicredit ha fatto comunque bene, che era stata particolarmente penalizzata nei mesi precedenti. C'è un ritorno di interesse sul settore, soprattutto come dicevamo prima, che era stato già penalizzato, quindi adesso lo sconto valutativo è molto forte, tra virgolette sono state anche, insomma, anche il Fondo Monetario ha sancito la solidità del sistema finanziario europeo per quanto riguarda comunque la liquidità, il tema liquidità, il tema capitale, quindi in questo momento, considerando anche i rendimenti obbligazionari dove sono arrivati, il settore sembra aver trovato un suo equilibrio su questi livelli, che sono comunque livelli relativamente bassi rispetto ai peers europei. Allora, scrive un ascoltatore, è sempre quello mi sembra Fabio, che mi chiede, mi dice Barisoni, la borsa è ai minimi, lei si dimetta, ogni volta lo chiede, stavolta mi dispiace deludere, non posso dimettere perché lei sbaglia, la borsa è ancora sopra i minimi del 2 marzo del 2009 quando toccò 16 febbraio e poi 2 marzo toccò 13.900 punti, è ancora sopra i minimi del 2 settembre 2011, è ancora sopra i minimi del 30 aprile 2012 quando scese a 13.800 punti, è ancora sopra i minimi del 28 giugno 2012, per cui non è vero quello che lei dice, certo non è a livelli alti, a 15.460 punti. Per quello che riguarda invece, tornando ai casi nostri, Beltramelli, per quello che riguarda invece altri titoli, vedo andare Montefibre male meno 10%, Alberghi Italiani meno 9,60%, Nokia meno 7,95%, questi sono i peggiori, con il gruppo Rizzoli e Corriere della Sera meno 6,31%, bene invece Caleffi più 5,70%, Renault de Medici più 4%. Il titolo invece che si è mosso secondo lei con maggiore interesse? Beh, oggi direi che come dicevamo prima ci sono due comparti essenzialmente che si sono mossi con interesse, che sono uno le banche di cui abbiamo già parlato in precedenza, ma sottolineare anche il movimento delle utilities, quindi anche i movimenti di Enel, Terna, che comunque hanno messo segno delle performance positive rispetto all'indice, ci avviciniamo anche alla stagione dei dividendi e comunque il mercato italiano offre un'opportunità anche in termini di rendimento rispetto ai dividendi che queste società staccheranno da qui a un mese. Quindi questi rendimenti confrontati anche con i rendimenti obbligazionari diventano sempre più interessanti, quindi titoli che staccano tra il 4 e il 5% di rendimento, il mercato italiano ha un rendimento medio del dividendo intorno al 3-3,50%, iniziano a essere rendimenti anche per la componente azionaria interessanti se comparati con un decennale che sta al 4,20, quindi sicuramente inizia a essere sempre più di interesse anche il tema della generazione di cassa e la possibilità di questa società, in un anche ambiente economico che speriamo migliori, possano distribuire sempre di più e quindi fare un extra rendimento per gli azionisti. Grazie, speriamo sia così. Grazie a Pierluca Beltramelli, responsabile mercati sviluppati per Aletti Gestielle. C'è chi dice, guardi che lei, sono stati i paesi europei a imporre a Draghi. No, non è così. Poi rispondo anche a questo. Ringrazio Gianni Dragoni in collegamento. Con lui dopo parliamo di Alitalia. e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, è Gabriele Del Torchio, nuovo amministratore delegato di Alitalia. Ne ha deliberato la nomina il Consiglio di Amministrazione. Attualmente Del Torchio è amministratore delegato di Ducati e la nomina arriva a quasi due mesi dalle dimissioni di Andrea Ragnetti, che è rimasto, diciamo, alla cloche della compagnia aerea per poco meno di un anno. Gianni Dragoni, buonasera. Buonasera. Allora, la riunione del Consiglio di Amministrazione però doveva essere anche l'occasione per discutere dal prestito da 150 milioni che è stato varato lo scorso 22 febbraio, sottoscritto al momento per 95 milioni, ma potrebbe avere nuovi soci. Si mi tiene assieme le due cose, cioè il ruolo di Del Torchio da un lato e il prestito di Alitalia. Del Torchio arriva all'Alitalia, dovrebbe arrivare a maggio, anche se oggi già ha partecipato, è stato presentato. E in una situazione molto difficile, la compagnia aveva finito i soldi, aveva finito il capitale, per questo è stato, anziché un aumento di capitale, è stato deliberato un prestito soci che però solo una parte, solo per due terzi, 95 milioni su 150 milioni deliberati, addirittura all'origine ne chiedevano 200 come fabbisogno, è stato versato dai soci più grandi, tra cui c'è il presidente Colaninno, c'è Air France KLM, c'è Banca Intesa, ci sono i Benetton con Atlantia, per fare i nomi principali. Quindi un compito molto difficile, perché anche oggi si è parlato dell'andamento 2013, non ci sono comunicazioni certe e ufficiali, ma è trapelato che è stato deciso un piano di risparmi per tagliare molto. Non si parla al momento di interventi sul personale, ma un regime di austerità. Anche quest'anno il bilancio è previsto in perdita, la compagnia punta nel budget al cosiddetto pareggio operativo, cioè che sarebbe un po' un pareggio alla fine del primo tempo di una partita che però finisce con una sconfitta. Esatto, e a questo punto secondo te però potrebbe rappresentare Del Torchio un cambio di direzione e di, insomma, di atteggiamento rispetto a Ragnetti oppure no? Rispetto a Ragnetti forse sì, nel senso, dico forse perché Del Torchio non si è ancora espresso e quindi credo che avrà appunto modo di dirlo, ma mi pare che il mandato che gli viene dato sia quello di gestire in una situazione di emergenza, di difficoltà, una compagnia che è un po' tirata all'osso come risorse, quindi il margine di manovra sembra piuttosto limitato. Ragnetti aveva cercato, con dei risultati però veramente negativi anche per il contesto, ma comunque risultati negativi, tant'è che gli azionisti stessi poi in buona parte hanno preferito cambiare pilota, aveva cercato una, diciamo, una politica basata molto sul marketing, che però non ha dato dei risultati. I problemi di fondo dell'Alitalia, che sono una compagnia molto concentrata sul mercato e nazionale ed europeo, dove la concorrenza soprattutto dei vettori low cost è molto forte, rimangono invariati. I maggiori vettori che hanno questa struttura, ma con dimensioni maggiori, come sono appunto Air France, KLM, Lufthansa o British Iberia, tendono a fare, diciamo, a cercare almeno di fare guadagni soprattutto con i voli a lungo raggio, è il settore dove l'Alitalia è più debole, perché richiederebbe anche degli investimenti importanti in aeroplani che non ha avuto i mezzi per fare in questi anni. Quindi credo che la strategia quale sarà? Sarà quella di un confronto anche con il socio e partner Air France, socio il 25%, interessato diciamo all'integrazione totale, ma non a pagare fiori di soldi per controllare una compagnia che ha un indebitamento molto importante, più di 1 miliardo di euro. Quindi rimane questo, secondo me, il tema di fondo anche del nuovo amministratore delegato. Staremo a vedere. Grazie intanto a Gianni Dragoni. E noi, dopo esserci occupati dei casi italiani, torniamo invece sulla parte dei temi europei di economia internazionale con quello che annunciavo, e quindi una sconfessione non da poco di alcuni teorici dell'austerità. Ma andiamo con ordine. Sì, torniamo sui temi europei, perché oggi il Parlamento tedesco ha dato via libera con un'ampia maggioranza, va detto, al pacchetto di aiuti per Cipro. 487 voti a favore, 102 contrari, 13 gli astenuti. Però, il mitico ormai ministro alle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, lo ricordiamo spesso, uno dei falchi della linea dura, dell'austerità, dei compiti a casa, dopo aver ricordato che in Italia e in Spagna le persone vivono un momento molto difficile, ma che questi paesi non hanno alternativa a fare le riforme. Io poi faccio notare che le riforme le dobbiamo fare, ma le riforme ci mettono qualche anno a esplicare i loro effetti, no? Per cui nel frattempo si può fare anche qualche politica più di crescita. Ma non è solo questo quello che mi interessa, perché Schäuble poi ha dichiarato al Bundestag, quindi al Parlamento tedesco: un'insolvenza di Cipro metterebbe a rischio anche paesi come Spagna e Italia. Io non so se l'abbia detto per forzare la mano per il voto, perché mi sembra una grandissima cavolata che saltando Cipro salterebbero anche la Spagna e l'Italia, perché sulla base di questa logica potremmo dire che se salta Cipro sono a rischio anche Spagna e Italia, ma se sono a rischio Spagna e Italia, a rischio anche la Germania, oltre che la Francia, i paesi del nord, allora a rischio l'euro, allora tutto dipende da Cipro? E poi magari a rischio anche gli Stati Uniti, perché se l'Europa salta gli Stati Uniti hanno difficoltà, e a rischio anche la Cina, cioè tutto il mondo dipende da Cipro. Perché se devo proseguire con questo ragionamento, nessuno è al sicuro, caro Schäuble, neanche voi, se salta la Spagna o se diventa insolvente l'Italia siete tranquilli, salta l'euro e poi voglio vedere. Devo dire che questa volta si è arrabbiato su queste dichiarazioni il nostro ministro alle attività produttive Corrado Passera, ospite questa mattina 9 in punto. Sentite la risposta che ha dato al nostro Simone Spezia proprio sulle dichiarazioni di Schäuble. Ma no, ma diamo il senso della misura alle cose. Già ci siamo fatti mettere nell'angolo da un paese che rappresenta il 2% dell'Europa e siamo riusciti a fare un casino del diavolo non avendolo affrontato nel modo giusto, nel momento giusto. Adesso non rifacciamolo con un micro problema come quello di Cipro. Eh sì, devo dire che sono d'accordissimo con il ministro Passera, anche perché il 2% era riferito alla Grecia, già ci siamo fatti mettere in un angolo, dice, non rifacciamola anche con Cipro, che conta ancora meno. Dopo il traffico però vorrei raccontare anche un altro caso oggi successo, la sconfessione dei due teorici dell'austerità, che l'austerità fa bene, fa ripartire la crescita economica, Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, dopo il traffico. Eh sì, dicevo di una sconfessione, perché insomma tutta la teoria che se tu hai un alto debito si danneggia la tua crescita economica deriva da due economisti americani, Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt, che scrissero un libro, questa volta diverso, in cui attraverso analisi di dati, di correlazioni, dimostravano come tutti i paesi con un debito oltre il 90% avevano avuto poi problemi sulla crescita economica. Che cosa hanno scoperto però ieri tre economisti dell'Università del Massachusetts? Che Rogoff e Reinhardt avevano taroccato i dati, nel senso che avevano omesso di prendere in considerazione alcuni paesi, per esempio l'Australia e la Nuova Zelanda, che hanno avuto un'alta crescita del PIL anche con alto debito. In quel modo la correlazione tra debito sopra il 90% e PIL non sarebbe stata dello meno 0,1%, quindi danno sulla crescita economica, ma più 2,2%. Rogoff e Reinhardt hanno ammesso che alcuni risultati erano errati, ma hanno ribadito comunque la validità complessiva dello studio. Una replica che ha fatto infuriare il premio Nobel all'economia Paul Krugman, che ha detto: ma insomma, analizzando i paesi del G7, il debito è causato dalla bassa crescita e non è causa della bassa crescita, è causato dalla bassa, una bassa crescita ti porta al debito, non è un debito che ti porta alla bassa crescita. E devo dire che su questo io vorrei sentire anche l'opinione del professor Gustavo Piga, che insegna politica economica all'Università di Tor Vergata, anche perché insomma, qualunque approccio economico di politica economica si basa su un approccio teorico. Fu famosa la curva di Laffer negli anni '80, che fu l'impostazione, diciamo, teorica della Reagan Economics: riduce le tasse ai ricchi perché avrai un ritorno sull'economia, spenderanno di più e tu come ci guadagnerà l'economia complessiva. Allora, Rogoff e Reinhardt sono gli ideologi di quel movimento che dice: se tu non tagli deficit e debito non puoi tornare a crescere. E gli studi erano un po' taroccati, si può dire, Piga? Allora, intanto cominciamo a dire una cosa interessante. Quei ricercatori di Amherst, dell'Università di Massachusetts, che sono usciti con questo studio, non è un caso che sono gli stessi che a valle della crisi del 2008 se ne uscirono facendo vedere tutti i conflitti di interesse che avevano una serie di economisti che lavoravano con banche e così via, e chiesero a voce alta un codice etico per tutti gli economisti americani. Perché? Perché non si sapeva più se questi studi scientifici erano veramente scientifici o erano studi politici volti a dimostrare tesi di comodo. E quindi questo intanto è un problema forte che noi continuiamo, ricordiamoci, Kenneth Rogoff e Patrick Reinhardt sono economisti che lavorano in istituzioni e per banche estremamente importante degli Stati Uniti d'America, mentre il signor Ugo Panizza e Andrea Presbitero, che sono certo lei non abbia mai conosciuto, sono due economisti italiani molto molto bravi, che hanno fatto circa un anno fa uno studio esattamente identico a quello di Reinhardt e Rogoff, ma con fior fiori di date e non con tabelline e correlazioni, e trovavano esattamente questo, cioè trovavano che non c'era questo effetto sempre, perché bisogna stare attenti anche qua adesso a non distruggere tutto. Non è vero che poi non ci sono delle volte in cui il debito effettivamente una zavorra e Dio sa se lo dobbiamo sconfiggere e non c'entra nulla e crea certamente le condizioni per bassa crescita. Quello che loro dimostravano chiaramente, come dice un po' Krugman, è che in questo periodo particolare, in queste tempeste perfette, di cui tra l'altro ce ne sono poche, ce n'è stata una negli anni 30, una adesso, da crisi da domanda, fare più debito non porta a più bassa crescita. Quindi noi siamo scienziati proprio per questo, perché non è che abbiamo una soluzione, non siamo dei tuttologi, abbiamo una soluzione per ogni situazione particolare, come ce l'ha un medico per un paziente, non è che applica sempre la stessa terapia anche in condizioni di malattia apparentemente simile. E queste situazioni qui sono situazioni in cui effettivamente maggiore debito genera maggiore domanda e quindi un qualcosa che serve tantissimo in questo momento in Europa. Ma anche qui bisogna qualificare, perché se noi andiamo a dire oggi Bersani, Berlusconi, Grillo, fate deficit immediatamente, beh, lo faremmo con miopia, perché non abbiamo osservazioni passate su cosa si deve fare in una tempesta come questa, in un'unione monetaria che è nata da 10 anni. Bisogna anche usare del buon senso, e quindi bisognerebbe dire, come facciamo da tanto tempo, come faccio io da tanto tempo con lei in trasmissione, ma anche tanti altri suoi bravi relatori, che dicono: no, prendiamo in mano tutti insieme, non solo l'Italia, la questione di questa enorme crisi europea, la Germania finalmente cominci a far mangiare lavatrici, a consumare lavatrici italiane ai lavoratori tedeschi che da anni hanno fatto degli sforzi incredibili per dare competitività al paese, quindi abbassiamo la pressione fiscale, facciamo deficit in Germania, che tra l'altro, vada bene, elimina quell'altro problema che sembrano dire alcuni si può eliminare soltanto con la deflazione, che è la differenza tra squilibri di bilancia dei pagamenti tra area dell'euro nord e area dell'euro sud, perché se la Germania fa più espansione fiscale, vede che importerà molto di più dall'Italia, le sue bilanci di partite correnti spariranno e spariranno gli squilibri di partite correnti. L'Italia ovviamente può farlo, ma può farlo meno, può farlo meno, perché in effetti comunque il segnale che dobbiamo dare ai mercati è un segnale certamente di unità, certamente di solidarietà, ma con una certa attenzione alle storie reciproche. E quindi sì, l'Italia per esempio una cosa che potrebbe fare, che disse il premio Nobel Stiglitz guardando in faccia Monti, quando Monti aveva appena iniziato la sua attività, gli diceva: ma come faccio io a fare più spesa pubblica, caro Stiglitz, facendo più debito? E Stiglitz gli diceva: ma tu non devi fare più debito, caro Monti, tu c'hai tutte queste belle tasse che ti sei alzato e che stai usando per trasferirle all'estero ripagando il debito dei detentori di titoli all'estero, invece usale per favore, quelle tasse, senza fare maggior debito, per farci spesa pubblica per investimenti. Non mi scorderò mai la faccia di Monti che lo guardò sconvolto. È una cosa che invece noi insegniamo al primo anno, si chiama moltiplicatore del bilancio. Ecco, beh, qui ci sono proprio due approcci diversi. Due cose per rispondere anche agli sms al 349-238-6666. Attenzione, nessuno sta dicendo che l'Italia debba imbarcare più debito e più deficit, anche perché, come diceva lei, professor Piga, c'è debito e debito, c'è deficit e deficit. Io dico sempre deficit buono e deficit cattivo. Se tu spendi per investimenti, metti in moto la macchina produttiva del paese, l'edilizia, il patto di stabilità interno, i comuni, le province, e dai lavoro, e questo genera un circolo virtuoso. Se tu spendi perché non sai riformare le pensioni, o spendi per consulenze e sprechi della pubblica amministrazione, quello è debito cattivo e deficit cattivo e basta. E noi sicuramente non possiamo viaggiare sempre al 130% del debito sul PIL. Però il problema qua è che se non cresce il PIL, il nostro debito in proporzione continuerà ad aumentare. Perché è un rapporto. Io cerco di farlo capire anche ai monetaristi stretti. È un rapporto debito o deficit sottostante al PIL. Se il denominatore cresce, si diminuisce il risultato e quindi tu sei sotto il 3% del deficit. Ma se il PIL continua ad andare vicino allo zero, sotto zero, tu puoi tagliare il debito e il deficit quanto vuoi e avrai sempre un risultato alto. Quindi è vero che va tagliato e ridotto, ma è anche vero che in questo momento leviamo questa regola aurea per cui un euro speso dal pubblico è un euro cattivo. No, può essere un euro buono se è speso in investimenti. Mi dica un'ultima cosa, lei suggeriva appunto che la Germania dovesse anche iniziare a spendere un po' di più, quindi imbarcare un po' di inflazione, un po' di deficit e spendere, alleggerire il carico fiscale in modo che i tedeschi spendano, vadano in vacanze, importino beni e riequilibrino il livello europeo. Però perché lei sostiene che alcuni economisti possono essere in un tale conflitto di interessi? Cioè, quale sarebbe il motivo, ce lo chiedono anche gli ascoltatori, per cui non so, alcuni economisti vicini alle istituzioni o alle grandi banche d'affari dovrebbero sostenere che i tagli, le tasse, tagli e tasse, riduzione del welfare sono l'unica strada perseguibile? Ma guardi, allora intanto ricordiamoci che questa è una buona domanda, perché di fatto in realtà ogni tanto mi capita. È nell'interesse di tutti. Io vorrei ricordare che è nell'interesse di tutti, anche delle banche, di fatto, che questa benedetta area dell'euro se ne esca fuori con maggiore crescita, perché così con la maggiore crescita anche i bilanci delle banche migliorano. I bilanci delle banche in questa recessione si stanno ingolfando di crediti che non vanno. Io le vorrei ricordare che lo spread nel 2012 non è mica che cascò a luglio quando Draghi andò in TV e disse faremo tutto quello che bisogna fare per, cascò l'ultima settimana di agosto, prima che Draghi riannunciasse altre misure tecniche, quando la Merkel disse a tutti, un po' di nascosto di fatto, ma lo raccontarono i giornali di allora, che la Germania aveva deciso di salvare la Grecia. Quando si sentì questa solidarietà, si capì o si pensò di che si sarebbe avuta una maggiore solidarietà, una maggiore crescita, e sarebbe dunque finalmente ripartita quella cosa chiamata Europa. Perché le dico questo perché? Perché la sua domanda è giusta, perché di fatto uno viene a dire tu sei in conflitto di interesse perché lavori per le banche e quindi stai certo zitto e non dici per esempio che bisognerebbe fare politiche fiscali espansive, come se le politiche fiscali espansive facessero male alle banche. E invece così non è, perché nel lungo andare, nel medio termine, fanno anche bene, diciamo, l'economia che riparte fa anche bene alle banche che vantano incagli e sofferenze. Professor Gustavo Piga, grazie. Da Sebastiano Barisoni le auguro una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con o senza il nuovo Presidente della Repubblica. Radio 24. La passione si sente.